Ad alta voce, Maria Paiato legge Amatissima di Toni Morrison. Traduzione di Giuseppe Natale. Raramente Beloved guardava. Oppure, quando lo faceva, Denver s'accorgeva che il proprio volto era solo il posto dove quegli occhi si fermavano. La mente, intanto, continuava ad andare. Ma a volte, in certi momenti che Denver non poteva né anticipare né provocare, Beloved appoggiava la guancia alle nocche delle dita e fissava attenta Denver. Era bello essere non osservati, non visti, ma essere oggetto di attenzione dello sguardo interessato, privo di intento critico dell'altra persona. Lasciarsi esaminare i capelli in quanto parte di sé, non per la loro bellezza o acconciatura. Lasciarsi carezzare le labbra, il naso, il mento. La pelle di Denver si scioglieva sotto quello sguardo e diventava morbida e luminosa, come il vestito di filo di Scozia che teneva il braccio attorno alla vita di sua madre. In quei momenti era Beloved che sembrava aver bisogno di qualcosa, che voleva qualcosa. Giù, nei suoi profondi occhi neri, dietro quella mancanza di espressione, c'era una mano con la palma aperta, tesa, che chiedeva. Se solo Denver avesse saputo come fare, o se avesse saputo abbastanza di lei, una conoscenza che certo non le sarebbe venuta dalle domande che Seth le poneva ogni tanto. Hai scordato tutto? Nemmeno io l'ho conosciuta, mia madre, però l'ho vista un paio di volte. La tua non l'hai mai vista? Beloved, grattandosi la mano, diceva che si ricordava di una donna che era sua e si ricordava che l'avevano presa di forza e allontanata da lei. A parte quello, il ricordo più chiaro che aveva, quello di cui parlava sempre, era il ponte. Stava sul ponte e guardava di sotto. E conosceva un bianco. Seth trovava tutto questo assai sorprendente e per lei era un'ulteriore prova a conferma delle sue ipotesi, che poi confidò a Denver. Beloved era stata tenuta rinchiusa da qualche bianco che faceva i comodi suoi e non la faceva mai uscire. Denver non credeva alle speculazioni di Seth, né le commentava. Abbassava gli occhi e non faceva il minimo cenno alla ghiacciaia. Era certa che il vestito bianco inginocchiato accanto a sua madre nel soggiorno fosse Beloved, la presenza reale della bambina che le aveva tenuto compagnia per gran parte della sua vita. Ed essere osservata da lei, anche se per poco, la compensava per tutto il tempo in cui era stata solo un'osservatrice. Non chiese a Beloved come faceva a sapere degli orecchini. Non le chiese delle sue passeggiate notturne alla ghiacciaia, o di quella cosa di cui si vedeva l'estremità quando si sdraiava o si scopriva durante il sonno. Le ragazze oggi sono fuori. Fa freddo e la neve è dura come la terra compatta. Denver ha finito di cantare la canzone sui numeri che Lady Jones aveva insegnato ai suoi studenti. Beloved tende le braccia, mentre Denver raccoglie la biancheria e gli asciugamani gelati stesi sul filo. Li adagia uno a uno nelle braccia di Beloved finché la pila, come un enorme mazzo di carte, le arriva al mento. Il resto, i grembiuli e le calze marrone, Denver li porta da sola. Stordite dal freddo, le due ragazze ritornano in casa. I vestiti si sgeleranno a poco e diventeranno perfettamente umidi per il ferro da stiro, il che li farà profumare come la pioggia appena caduta. Danzando per la stanza con il grembiule di Seth, Beloved vuole sapere se al buio ci sono i fiori. Denver aggiunge della legna al fuoco della stufa e le assicura che ci sono. Facendo una piroetta, il volto incorniciato dal colletto a giro, la vita fasciata dai legacci del grembiule, dice di avere sete. Denver propone di riscaldare del sidro e intanto la sua mente s'affretta a trovare qualcosa da fare o da dire per poter interessare e intrattenere la danzatrice. Denver ora è diventata una stratega e deve tenere Beloved al suo fianco dal momento preciso in cui Seth esce per andare a lavorare fino all'ora del suo ritorno, quando Beloved comincia a ronzare vicino alla finestra, poi va alla porta ed esce, scende gli scalini e si dirige verso la strada. Complottare ha cambiato Denver radicalmente. Se prima era pigra e si risentiva per qualunque cosa le si chiedesse di fare, ora è attiva. Esegue i compiti che Seth lascia loro, lavorando persino più del dovuto. Tutto per poter dire «dobbiamo farlo» o «la signora ci ha detto di fare». Altrimenti Beloved diventa riservata e sognante, o silenziosa e imbronciata, e per Denver le possibilità di essere guardata si riducono a zero. Sulle serate non ha nessun potere. Quando sua madre è nei paraggi, Beloved ha occhi solo per Seth. La notte, a letto, può capitare di tutto. Può capitare che Beloved si voglia far raccontare una storia al buio, quando Denver non può vederla. O può capitare che si alzi per andare nella ghiacciaia, dove Paul D va a dormire. O può capitare che pianga in silenzio. Può anche capitare che dorma come un sasso, con l'alito che sa di zucchero per le ditate di melassa o le briciole dei biscotti farinosi. A quel punto Denver si volterà verso di lei e, se Beloved le sarà di fronte, inalerà profondamente il dolce alito della sua bocca. Altrimenti dovrà tirarsi su e protendersi verso di lei per annusarla ogni tanto. La caraffa del sidro è pesante, ma lo è sempre, anche quando è vuota. Denver la può portare facilmente. Comunque chiede a Beloved di aiutarla. È nella ghiacciaia, vicino alla melassa e ai 3 chili di formaggio dolce duro come la pietra. Al centro, sul pavimento, c'è un pagliericcio, ricoperto di giornali con una coperta ai piedi. È servito come giaciglio a qualcuno per quasi un mese, nonostante sia venuta la neve e, con lei, l'inverno rigido. È mezzogiorno, fuori c'è abbastanza luce, dentro no. Alcuni raggi di sole riescono ad attraversare il tetto e le pareti, ma una volta dentro sono troppo deboli per cavarsela da soli. L'oscurità è più forte di loro e l'inghiotte come pesciolini. La porta si chiude con un tonfo. Denver non saprebbe dire dov'è Beloved. «Dove sei?» sussurra, quasi come se stesse ridendo. «Qua», risponde Beloved. «Dove?» «Vieni a cercarmi», dice Beloved. Denver allunga il braccio destro e fa un paio di passi. Inciampa e cade a terra sul pagliericcio. Si sente il giornale frusciare sotto il suo peso. Ride di nuovo. «Oh, accidenti, Beloved! Sei tu quella che ha sete! Lo vuoi il sidro o no?» La voce di Denver ha un vago tono di accusa. Vago! Non vuole offenderla e non vuole tradire il terrore che si sta impadronendo di lei con dita sottili. Di Beloved nessuna traccia. Denver cerca di tirarsi in piedi tra il frusciare dei giornali. Tenendo la palma in fuori si muove lentamente verso la porta. Non c'è nessun chiavistello, nessuna maniglia, solo un pezzo di fil di ferro che si aggancia a un chiodo. Spinge la porta e la apre. La fredda luce del sole sostituisce l'oscurità di prima. La stanza è esattamente come quando sono entrate, solo che Beloved non è più lì. Non c'è motivo di cercare oltre, poiché lì dentro si riesce subito a vedere quello che c'è. Denver comunque cerca ancora, poiché la perdita è insopportabile. Rientra nel capanno, lascia che la porta si richiuda rapidamente dietro di lei. «No, no», dice deglutendo a fatica, con la voce rotta dai singhiozzi. «No, non te ne tornare là». È ancora peggio di quando Paul D è arrivato al 124 e lei ha versato disperata le sue lacrime sulla stufa. È ancora peggio. Allora aveva pianto per sé, ora piange perché non ha un io. Al confronto, morire è come saltare un pasto. Sente il proprio spessore farsi più sottile, svanire nel nulla. Si afferra i capelli all'altezza della tempia, quanti ne bastano per sradicarli e arrestare per un attimo quel suo disciogliersi. Serrando i denti, Denver cerca di trattenere i singhiozzi. Non va ad aprire la porta perché fuori il mondo non esiste. Decide di restare nella ghiacciaia e farsi inghiottire dall'oscurità. Non il rumore di un passo ad annunciarla, Però Beloved è lì, dove prima Denver aveva guardato e non aveva visto nessuno. E sorride. Denver le afferra il lembo della gonna. Credevo m'avessi lasciata. Credevo te ne fossi tornata là. Beloved sorride. Non lo voglio quel posto. È qui che sono adesso. Si siede sul pagliericcio e ridendo si sdraia guardando la luce che filtra dalle fessure in alto. Con fare furtivo, Denver stringe tra le dita un lembo della gonna di Beloved. Ottima decisione, poiché Beloved all'improvviso si tira su. «Che cosa c'è?» le chiede Denver. «Guarda», le dice, e indica le fessure illuminate dal sole. «Che cosa? Io non vedo niente». Denver segue con lo sguardo il punto indicato dal dito. Beloved lascia ricadere la mano. «Io sono così». Denver osserva Beloved che si china, si raggomitola e si dondola. Il suo sguardo non va da nessuna parte. Il suo lamento è così flebile che Denver lo sente a malapena. «Ti senti bene, Beloved?» Beloved mette a fuoco lo sguardo. «Laggiù, quella faccia». Denver segue lo sguardo di Beloved. Non c'è nulla, se non l'oscurità. «La faccia di chi? Chi è?» «Io, sono io». Sorride di nuovo. Paul D avrebbe raccontato a Seth di quelle ultime 3 settimane. L'avrebbe presa in disparte quando ritornava dal lavoro, da quel bar che lei chiamava ristorante, e le avrebbe raccontato tutto. La aspettò. In quel pomeriggio invernale sembrava di essere già all'imbrunire. Paul D era nel vicolo, dietro il Sawyer's Restaurant, e ripassava mentalmente quello che doveva dirle, immaginando il volto di lei, consentendo alle parole di far ressa nella sua testa come un gruppo di ragazzini prima di mettersi in fila per seguire il capo. «Bene, non è che un uomo non può, lo sai, davvero, non è per quello. Quello che voglio dire è che non è debolezza. La debolezza posso combatterla perché mi sta capitando qualcosa. È quella ragazza, lo so. Pensi che non m'è mai piaciuta manco un po', ma è lei. Mi sta sistemando, Seth. M'ha sistemato per le feste. E io non posso farci niente». Che cosa? Un uomo fatto, sistemato da una ragazza. E se la ragazza non era una ragazza, ma una cosa che sembrava una ragazza? Una cosa spregevole, che aveva l'aspetto di una dolce ragazzina. E il punto non era se l'avesse scopata o no. Era che al 124 non riusciva più a stare, né ad andare dove voleva, e il pericolo consisteva nel perdere Seth, perché non era abbastanza uomo da agire. Perciò aveva bisogno che lei, Seth, lo aiutasse, che lo sapesse, e si vergognava di dover chiedere alla donna che voleva proteggere di aiutarlo in questo, accidenti. Paul D cercò di scaldarsi le mani col fiato. Infine la porta sul retro si aprì e ne uscì Seth con la pentola degli avanzi. Quando lo vide disse «Oh!» e sorrise, piacevolmente sorpresa. Paul D credette di ricambiare il sorriso, ma si sentiva la faccia talmente fredda che non ne era sicuro. «Ehi, mi fai sentire come una ragazzina, venirmi a prendere al lavoro. Non l'ha mai fatto nessuno prima. Meglio che tu stia attento, se no ci faccio l'abitudine». «Devo sciacquare la pentola», disse. «Poi vengo subito!» Paul D annuì, mentre lei tornava in cucina. Il fazzoletto che portava sulla testa era di lana marrone e lei lo spostò piano in avanti fino a coprire tutti i capelli, per meglio proteggersi dal vento. «Hai smesso prima o che?» «Ho smesso prima». «C'è qualche problema?» «In un certo senso», disse lui, e si asciugò le labbra. «Non è che t'hanno licenziato?» «No, no, no, c'è un sacco di lavoro. Volevo solo...» «Sì?» «Seth, quello che sto per dire non ti piacerà». Lei si fermò e si voltò verso di lui e verso quel vento odioso. Un'altra donna avrebbe socchiuso le palpebre, o perlomeno gli occhi le sarebbero lacrimati se il vento le avesse sferzato la faccia come faceva con Seth. Un'altra donna gli avrebbe lanciato uno sguardo apprensivo, supplichevole, rabbioso persino, perché quello che aveva appena detto aveva tutta l'aria di essere la prima parte di «Addio, me ne vado». Seth lo guardò ferma, calma, già pronta ad accettare, a scusare, a lasciare libero un uomo che aveva altri bisogni o che si trovava nei guai, pronta a dire «sì, d'accordo, va bene» in anticipo, poiché pensava che nessuno di loro, alla lunga, potesse essere all'altezza delle aspettative. E qualunque fosse il motivo, andava bene. Non era colpa sua, non era colpa di nessuno. Poldi sapeva quello che lei stava pensando. E anche se si sbagliava, non la stava lasciando, non avrebbe voluto mai. Quello che aveva in mente di dirle sarebbe stato ancora peggio. Così, quando le lesse nello sguardo che la sua speranza era scemata, la sua malinconia era senza accuse, non riuscì a dirglielo. Non poteva dire a quella donna che non socchiudeva gli occhi nel vento «Non sono un uomo». «Beh, dillo pure, Poldi, che mi piaccia o no». Poiché non riusciva a dire quello che aveva in mente, disse qualcosa che non sapeva di pensare. «Voglio un bambino, Seth. Vuoi farlo per me?» Ora lei rideva, e anche lui. «E tu sei venuto fin qua per dirmi questo?» «Sei tutto pazzo. Hai ragione, non mi piace. Non ti pare che sia troppo vecchio per ricominciare tutto da capo?» Fece scivolare le dita nella sua mano, esattamente come le ombre che si tendevano per mano sul ciglio della strada. «Pensaci», disse lui. All'improvviso aveva intravisto una soluzione. Un modo per aggrapparsi a lei, provare la sua virilità e spezzare così l'incantesimo della ragazza, tutto in una volta. Prese la mano di Seth e le fece mettere la punta delle dita sulla propria guancia. Ridendo, lei la tolse per il timore che qualche passante le vedesse comportarsi male in pubblico, alla luce del giorno, nel vento. Mezz'ora dopo, quando arrivarono ai margini della città, Seth e Paul ripresero a rincorrersi e a stringersi le mani, a darsi delle pacche furtive sul di dietro, imbarazzati ma felici di essere così grandi e così giovani allo stesso tempo. «Fermezza», pensò Poldi, «era quello che ci voleva. E nessuna ragazza orfana, nessuna figlia d'una cagna, randagia e pigra, avrebbe potuto rivoltarlo così, farlo dubitare di se stesso, interrogare se stesso, implorare o confessare». Convinto di potercela fare, mise il braccio attorno alle spalle di Seth e la strinse a sé. Lei appoggiò la testa al suo petto e, poiché era un momento prezioso per entrambi, si fermarono e rimasero così, senza respirare, incuranti del fatto che potesse passare qualcuno. La luce invernale era debole. Seth chiuse gli occhi. All'improvviso cominciò a nevicare, piano, come un dono del cielo. Allora Seth riaprì gli occhi e disse «grazie». E a Poldi sembrava che lo fosse davvero, un piccolo dono del cielo. Qualcosa dato loro allo scopo di contrassegnare quello che provavano. Così l'avrebbero ricordato più avanti, quando ne avessero avuto bisogno. Scendevano dei fiocchi di neve asciutti, abbastanza grandi e pesanti da schiantarsi come monetine sulla pietra. La calma della neve lo sorprendeva sempre. Non era come la pioggia, ma come un segreto. Erano quasi le 4 e il 124 era a circa un chilometro di distanza. Si videro venire incontro una figura incerta, appena visibile, e benché fosse la stessa figura che andava incontro a Seth da 4 mesi, lei e Poldi erano tanto presi l'uno dell'altra che quando la videro avvicinarsi sobbalzarono entrambi. Beloved non guardò Poldi. Tutta la sua attenzione era rivolta a Seth. Non aveva né cappotto né soprabito, niente sulla testa, però teneva in mano un lungo scialle. Allungando le braccia, cercò di metterlo attorno alle spalle di Seth. «Ma tu sei matta!» disse Seth. «Sei tu quella che se ne sta qui fuori senza niente addosso!» E, staccandosi da Poldi, prese lo scialle e lo avvolse attorno alla testa e alle spalle di Beloved. Poi aggiunse «Devi imparare ad avere più giudizio!» e la strinse a sé col braccio sinistro. Ora i fiocchi di neve erano appiccicosi. Seguendo le due donne a qualche metro di distanza, Paul D dovette combattere la rabbia che sentiva ribollire dentro finché non giunsero a casa. Fu Seth a risolvere la cosa. Senza diffidenza, con sicurezza, risolse tutto in un colpo solo. «Ora so che stanotte non vai a dormire là fuori, vero Paul D?» Gli sorrise e, come un amico bisognoso, il camino si mise a scoppiettare per protestare contro il flusso d'aria fredda versato dentro dal cielo. I telai delle finestre tremarono sotto una raffica di vento invernale. Paul D alzò lo sguardo dal suo stufato. «Vieni di sopra, il tuo posto è lì», disse lei, «e lì devi restare». I fili velenosi che avanzavano lenti verso di lui dalla parte del tavolo dove c'era Beloved venivano neutralizzati dal caldo sorriso di Seth. Le era grato. Si sentiva come se lo avessero strappato da un dirupo e l'avessero deposto a terra, in salvo. Nel letto di Seth, sdraiato per bene, guardando i fiocchi di neve ondeggiare al di là della finestra sopra i suoi piedi, era facile scacciare i dubbi che l'avevano condotto al vicolo sul retro del ristorante. Si aspettava troppo da se stesso. Troppo. Quello che per lui era vigliaccheria, per gli altri era semplicemente buonsenso. Rannicchiata nella piega del suo braccio, Seth si rammentò della faccia di Paul D in strada, quando le aveva chiesto di dargli un bambino. Anche se aveva riso e lo aveva preso per mano, la cosa l'aveva spaventata. Era terrorizzata al pensiero di avere di nuovo un bambino, di dover essere di nuovo abbastanza brava, abbastanza sveglia, abbastanza forte e responsabile come una volta, dover restare viva ancora tutto quel tempo. Che Dio me ne scampi, pensò. A meno d'essere irresponsabili, l'amore materno era micidiale. Perché la voleva incinta? Per aggrapparsi a lei? Per lasciare un segno del suo passaggio? A ogni modo, probabilmente aveva figli dovunque. In 18 anni di vagabondaggio, di sicuro, doveva averne fatto qualcuno. No, gli davano fastidio le sue figlie. Ecco che cos'era. Sua figlia, si corresse. Sua figlia più Beloved, che ora considerava come sua. Ecco che cosa gli dava fastidio. Gli dava fastidio doverla dividere con le ragazze, sentirle ridere tutte e tre per qualcosa in cui lui non c'entrava, il codice che usavano tra di loro e che lui non poteva interpretare, forse persino il tempo che dedicava alle loro esigenze e non a quelle di lui. Bene o male, erano una famiglia e lui non ne era il capo. Seth sospirò e gli mise la mano sul petto. Sapeva che le accuse che raccoglieva su di lui le avrebbe usate come scuse per non restare incinta, e questo la faceva vergognare un po'. Però aveva già tutti i figli di cui aveva bisogno. Se un giorno i suoi ragazzi fossero tornati e Denver e Beloved fossero rimaste, beh, sarebbe stato come doveva essere, no? Subito dopo aver visto le ombre tenersi per mano sul ciglio della strada, la situazione non era forse cambiata? E nell'attimo stesso in cui aveva visto il vestito e le scarpe nel cortile davanti alla casa, le si erano rotte le acque. Non aveva avuto bisogno di vedere il volto infiammato dalla luce del sole. Lo aveva sognato per anni. Sotto la sua mano, il petto di Paul D s'alzava e s'abbassava. S'alzava e s'abbassava.